notte non ha cambiato niente in questa mia prova del fuoco. Io sono un uomo virtuale. Questo buio fatto di seta che ora vorrei venire a svegliarti per te ero un bimbo speciale. E sono un uomo banale. Maria, perché non fa un miracolo? Maria, perché non vuoi restare qui? Maria, com'è? Adesso non c'è più. Maria, dov'è? Ti rincontrerò. Maria, perché non fa un miracolo? Maria, dov'è che ti rincontrerò? Questo buio fatto di seta, io sono un uomo virtuale. Io sono un uomo virtuale.